Lodare Dio, uno e trino. Nei giorni di festa, dopo l'atto penitenziale, il celebrante e il popolo recitano insieme il Gloria in Excelsis Deo, l'inno gioioso che gli angeli intonarono la notte di Natale, che poi la Chiesa ampliò trasformandolo in una dossologia, cioè in un inno di lode alle tre persone della Santissima Trinità. Dal fatto di riconoscere il nostro nulla e ancor di più dal riconoscimento del nostro essere peccatori bisognosi di perdono, passiamo alla proclamazione della grandezza del Dio tre volte santo. La lingua non riesce a trovare le parole adeguate per manifestare la riconoscenza dovuta a Dio. Il canto si effonde in espressioni di lode per i beni ricevuti. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Rendiamo grazie a Dio per la sua grandezza infinita. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Possa la nostra venerazione essere molto profonda nel pronunciare queste parole. Alimentiamo in noi il desiderio di riparare per le offese che il Signore riceve, in primo luogo per le nostre. È davvero consigliabile l'acquisire sempre maggior consapevolezza che la passione, morte e risurrezione di Cristo sono un dialogo tra il Redentore e l'umanità, e quindi anche tra Lui e ciascuno di noi. Gesù Cristo, il Figlio dell'Altissimo, il Figlio dell'uomo, si rivolge a Dio Padre dalla croce, unto nello Spirito Santo, per rendere il supremo atto di lode e per ottenere la remissione delle nostre colpe. Tale è il motivo per il quale nel Gloria diciamo a Gesù: Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Perché tu solo sei il Santo, tu solo il Signore, l'Altissimo, che ha riconciliato la terra con il cielo. La tua azione di grazia ci colma di pace e di coraggio per trasformare la nostra vita in unione con quella gloria che tu, a nome nostro, rendi al Padre. Ciascuno di voi, diceva il fondatore dell'Opus Dei, ha un cuore pieno di tenerezza, come me. Allora, usatelo in questo amore, in questo rapporto d'amore, di riparazione per le nostre miserie e per quelle degli altri. Usatelo al cospetto dell'umanità intera e al cospetto di questo Dio del cielo che è uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non possiamo capirlo appieno. Se comprendessimo la Trinità, saremmo intelligenti quanto Dio. Io posso trasmettervi la mia esperienza. Passo alcuni periodi a leggere trattati sulla Santissima Trinità e non appena intravedo un po' di luce mi sento felice. Quando invece percepisco solo molta oscurità, mi sento felice lo stesso. Sei talmente grande, Signore, che non riesco a capirti. È meraviglioso. Noi battezzati, membra di Cristo nella Chiesa Cattolica, ci rallegriamo perché possiamo manifestare, anche con la nostra stessa esistenza, il carattere di cattolicità della sposa di Cristo. In effetti, siamo venuti dalla nostra nazione, dalla nostra famiglia, dal nostro ambiente, attratti da nostro Signore Gesù Cristo per portare, per Lui, con Lui e in Lui, il suo Vangelo d'amore a tutte le creature. Orazione colletta, raccolta in unità delle richieste. Nella colletta presentiamo a Dio Padre le petizioni che la Chiesa rivolge a Dio ogni volta che si celebra il Santo Sacrificio. Lo facciamo sempre per mezzo di Cristo, l'unico mediatore nello Spirito Santo, il quale raccoglie le nostre suppliche e le unisce a quelle del nostro Capo. Il mistero della Trinità si mette nuovamente in evidenza nella Messa. Capiamo meglio allora quella frequente esclamazione di San José María che era come un ritornello che ritmava la sua unione con il Signore. Quando si frequenta una delle persone divine, allora si cominciano a frequentare tutte e tre le persone dell'unico vero Dio. Immergersi nella profondità della Santissima Trinità è qualcosa di straordinario. Dio è così grande che non possiamo comprenderlo. L'orazione colletta, diversa e specifica per ogni messa, offre abbondante materia di meditazione. All'inizio dell'anno liturgico, per esempio, supplichiamo Dio perché Cristo ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Un'altra colletta invoca l'aiuto del Padre affinché ci renda perseveranti nel bene in attesa del Cristo, perché quando Egli verrà e busserà alla porta ci trovi vigilanti nella preghiera, operosi nella carità fraterna ed esultanti nella lode. Altre volte questa supplica ci ricorda: quia tibi sine te placere non possumus, che cioè senza l'aiuto divino non possiamo fare nulla di buono. Oppure veniamo incoraggiati a chiedere che ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia, che cioè i nostri cuori rimangano fissi senza deviare là dove si trovano le vere gioie. I testi della colletta formano un ventaglio di suppliche che si innalzano al cielo con sfumature diverse a seconda dei tempi liturgici e delle feste celebrate. Tale orazione ci dispone sin dall'inizio del Santo Sacrificio ad accogliere al meglio Cristo nella comunione. San José María traeva nutrimento da queste antiche preghiere liturgiche sia per la sua anima di contemplativo sia per il suo incessante apostolato. Di recente, nella Santa Messa, diceva una volta a coloro che lo ascoltavano, ho letto una preghiera che è come sempre un gioiello cesellato, lavorato con metallo preziosissimo e adorno di finissime perle. Chiediamo in questa supplica al Signore: ut semper rationabilia meditantes, quae tibi sunt placita et dictis exequamur et factis, che pensando sempre conformemente alla retta ragione, parliamo e agiamo nel modo a te gradito. È meravigliosamente cristiano chiedere al Signore che ci dia la grazia di comportarci come a Lui piace. E cos'è che il nostro Padre Dio gradisce? La nostra felicità. Precisava altresì rivolto ai suoi fratelli uomini: siamo infelici quando ci allontaniamo stupidamente da Lui per seguire i desideri del fomes peccati presente in noi. Ci sono poi le attrattive di quello che chiamano il mondo, che non è però il mondo che noi amiamo appassionatamente. Inoltre c'è l'azione costante del demonio e c'è la carne che ci tira verso il basso. Dura tutta la vita. Capita alla vostra età, quale che essa sia, e alla mia, che ho superato i 72 anni. San José María concludeva dicendo che la lotta interiore per risultare graditi a Dio è legge di vita cristiana. Occorre combattere sempre, dando costantemente battaglia per vincere se stessi. Con la grazia del Signore otterremo che in ciascuno di noi si compia un'altra esortazione di quel santo sacerdote: siate fedeli, siate forti, siate docili, coltivate le virtù umane, abbiate un cuore grande e leale. Esortandovi a questo non vi chiedo nulla di straordinario, vi chiedo semplicemente che tocchiate il cielo con la vostra testa. Ne avete tutto il diritto, perché siete figli di Dio. Tuttavia i vostri piedi devono stare saldamente piantati per terra per poter glorificare il Signore nostro Creatore nel mondo, sulla terra, attraverso il lavoro dell'uomo. Desideriamo vedere Cristo. Vultum tuum, Domine, requiram. Salmo 26,8. Nelle circostanze più diverse attraverso cui passiamo e dietro di esse, di fronte alla possibilità di vivere nel mondo, là dove ci troviamo in intima amicizia con il Signore, possiamo chiederci come va la nostra rettitudine d'intenzione giorno dopo giorno. Applichiamo assiduamente nei nostri comportamenti il punto di vista cristiano, mettendo a fuoco in un'ottica di fede le diverse situazioni, persino quelle in apparenza più insignificanti.